diceva che arrivava da Roma e non voleva mancare qui a Roma, quindi la ringraziamo veramente due volte, dottoressa. Grazie di cuore. Grazie, grazie a voi, è un impegno che non potevo assolutamente mancare, per cui mi sentite? Solo passo il microfono. Comunque i ragazzi, come dicevo prima, l'hanno già visto nel docufilm, nei tantissimi interventi del signor questore. Adesso vi lascerò la parola per approfondire l'argomento. Grazie di nuovo. Grazie sindaco, grazie dottoressa Caccia. Diciamo che con voi è una collaborazione continua su vari fronti, sul tema della violenza di genere, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore, ma anche sul tema delle misure di prevenzione patrimoniali, che è un altro tema nel quale veramente vogliamo impegnarci e mettercela tutta. Per cui vi ringrazio perché fate da traino anche su questi argomenti fondamentali. Detto questo, chiedo scusa per il ritardo, ma come diceva il sindaco, mi impegno improvviso a Roma di lavoro e quindi sono arrivata sul filo, quindi davvero scusa. E, avete visto il docufilm, giusto? L'avete visto oggi, adesso? Ecco, bene. E allora io, più che parlare io, poi vorrei chiarire a voi dei passaggi che magari ci sono e sui quali avete bisogno di un confronto. Come avete visto il docufilm, anzi diciamo come nasce. Nasce da una mia idea, quando ero dirigente della divisione anticrimine della Questura di Milano. Io mi sono occupata per, vi dico un po' questo perché può essere utile capire l'evoluzione di un percorso e quello che è nato dentro di me quando mi sono trovata di fronte alla violenza di genere. Per 10 anni all'inizio della mia carriera io mi sono occupata di criminalità organizzata, ero in Calabria e di lotta alla 'ndrangheta, quindi un qualcosa che non aveva nulla a che vedere con la violenza di genere. Consideriamo anche che in Calabria il fenomeno della violenza di genere è sommerso, nel senso che le donne la subiscono, vengono picchiate dagli uomini che le maltrattano, ma non viene fuori, non denunciano. Quindi il dato apparente potrebbe essere quello che in Calabria non c'è violenza domestica, mentre invece in Lombardia c'è, perché le denunce sono tante. Questo dato, ragazzi, va letto al contrario. Ecco, le regioni virtuose sono quelle dove la denuncia esiste perché funziona la rete di tutte le persone che devono supportare le donne vittime di violenza domestica per farle uscire dal loro percorso. Quindi la Lombardia è il numero dove ci sono un numero alto di denunce. Leggevo mentre stavo venendo in macchina con le consuete file qui delle nostre autostrade che anche la Liguria adesso ha aumentato il numero delle donne che denunciano. Ecco, questi sono i meccanismi virtuosi e le regioni virtuose. La Calabria e molte regioni del sud sono ancora a un numero bassissimo, che significa che il fenomeno è sommerso. Le donne non denunciano, la rete non funziona bene. E quindi, diciamo, ho parlato della Calabria per dirvi che mi sono occupata però di criminalità organizzata. Arrivo a Milano e di criminalità organizzata non mi occupo più e mi occupo proprio della sezione della squadra mobile, quindi sotto il profilo della repressione, che gestisce gli abusi in danno dei minori e le violenze sessuali. Quindi conosco questo fenomeno, il mio primo approccio è sotto l'aspetto repressivo, ossia il reato era già consumato, noi interveniamo per stabilire chi sia l'autore del reato o per trovare delle prove per poterlo assicurare alla giustizia. Ecco, quando succede un femminicidio non sono indagini che ci piacciono, ed è il fallimento del sistema. Anche un solo femminicidio significa che il sistema ha fallito, perché sono indagini semplici purtroppo per gli investigatori, si arriva però quando è troppo tardi. Sono diciamo cronache di morti annunciate, dove l'autore si fa presto a rintracciare e ad arrestare e dove è fallito il sistema. Pensate che molto spesso accanto alla morte della vittima c'è anche la morte dell'autore del reato. Questo cosa significa? Che c'è un disagio in quella coppia, c'è una situazione che piano piano ha portato ad un'escalation di violenza che dai maltrattamenti ha condotto al femminicidio. Quindi io l'ho affrontata questa cosa sotto il profilo della repressione, intervenivamo e assicuravamo il colpevole alla giustizia. Interagendo con queste vittime che già avevano subito un reato, mi sono resa conto però già di una cosa, che possiamo fare una classificazione per categorie, ovviamente l'essere umano è unico e inclassificabile, però nella cassetta degli attrezzi dei nostri operatori di polizia e di tutti gli addetti al settore serve sapere che le donne vittime di maltrattamenti in famiglia che sono dentro la relazione familiare sono ambivalenti. Sapete che significa il termine ambivalente? Ragazzi, ve lo spiego io, lo sapete cosa significa. Ambivalente è una persona che sa e consapevole che quella cosa non va bene per lei, però non riesce a staccarsi da quella situazione. Quindi da un sotto in un certo momento, quando magari la situazione si fa complicata, quando prende le botte, non ne può più e decide di voler chiudere la situazione giustamente. Ma nell'altro momento, visto che è una relazione che si consuma dentro le mura familiari, è un rapporto cioè che vive giorno per giorno, in un altro momento, quando il maltrattante capisce che sta perdendo la presa e capisce quindi anche che deve fare qualcosa per riconquistarla, e lo fa, mette in atto delle tecniche che gli esperti, che noi esperti del settore chiamiamo di luna di miele, le tecniche della luna di miele, per riprendere, per riprendere punti con la sua compagna. A quel punto la donna ci crede, ecco, e questo è l'errore che facciamo, che fanno tutte coloro che sono dentro questo percorso di violenza domestica. La donna non può essere croce rossina di un uomo che vuole essere prevaricatore. Ricordatelo, ragazze, gli uomini non cambiano e non cambiamo nemmeno noi, nessuno cambia nella sua essenza. Se una persona è così, rimane così. Quindi nessuna opera di salvataggio di quell'uomo, bensì la messa in sicurezza propria. Dobbiamo uscire da quella relazione, perché se non usciamo in quel momento potrebbe anche diventare troppo tardi. Stiamo vedendo cosa sta succedendo con questi due quasi vostri coetanei a Padova. Questi due ragazzi, Padova in Veneto, comunque non mi ricordo dove abitassero, però ecco, questa relazione dove lui non si rassegnava, lei comunque gli dispiaceva interrompere completamente, e come che epilogo purtroppo sta avendo, un epilogo triste e tragico. Lei probabilmente è stata ammazzata da lui e lui non si trova. Si troverà, perché alla fine sarà lui stesso, o magari deciderà di togliersi la vita perché afflitto dal rimorso, perché non si tratta di delinquenti incalliti, ma di uomini che non si rassegnano alla fine della relazione. Quello che abbiamo visto nel docufilm è proprio la realtà con la quale io mi sono confrontata giorno dopo giorno. E allora, cosa possiamo fare? non soltanto agire sotto il profilo della repressione. Ve l'ho detto, questo arresto di queste persone a noi operatori di polizia non ci gratifica, perché abbiamo fallito, perché una donna è morta ed eravamo tutti lì, sotto gli occhi di tutti si consumava questa cosa, quindi non è gratificante. Come e quando possiamo sentirci gratificati? Quando interveniamo prima, quando arriviamo prima che questa escalation, che questa mattanza si consumi. E allora, quando è che possiamo arrivare prima? In una seconda fase della mia carriera mi sono trovata a dirigere la divisione anticrimine della Questura di Milano, da dove nasce il protocollo Zeus. La divisione anticrimine è un ufficio importantissimo perché si occupa, tra le altre cose, di misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono dei provvedimenti amministrativi, quindi non hanno nulla a che fare col diritto penale, che vengono irrogati nei confronti dei soggetti che manifestano socialmente nella società una pericolosità sociale concreta ed attuale. Nell'ambito di queste misure di prevenzione, il legislatore, in una evoluzione legislativa nell'ambito della violenza di genere significativa e importante, ha previsto l'ammonimento del questore per stalking e per violenza domestica, quindi per atti persecutori e per violenza domestica. Quindi sia la donna che subisce atti persecutori che la donna che subisce violenza domestica possono venire dal questore e dire che è una situazione che non ce la fanno più a sopportare, e il questore emette un provvedimento che è proprio un ammonimento di ammonimento. Il cartellino giallo allo stadio, cartellino rosso, cartellino giallo, basta, tu soggetto devi smettere di comportarti così, perché se continuerai a comportarti così sarai passibile di un procedimento penale e quindi potrai essere arrestato e di pene più severe. Il protocollo Zeus cosa fa? Associa a questo provvedimento di ammonimento anche un percorso di rieducazione del potenziale maltrattante. E perché questo connubio, questo match tra provvedimento di ammonimento e percorso rieducativo del maltrattante è importante e ha dato dei risultati notevoli nel corso del tempo? Perché l'ammonimento colpisce un soggetto che alle prime battute, che è all'inizio della sua carriera, purtroppo infausta, di maltrattante. Inizia in quel momento, sono i primi agiti, è il primo schiaffo, è il primo spintone, e si vede subito intercettato perché c'è qualcuno che lo blocca all'inizio. Non sapete quanto è importante intervenire in quella fase. Sapete perché è importante? Perché se siete, chi di voi seguirà questi percorsi e si appassionerà di criminologia, vedrà che la maggior parte dei femminicidi nascono dai maltrattamenti in famiglia. C'è un momento in cui il maltrattamento inizia. Dopodiché il soggetto che maltratta, se si vede, se viene lasciato indisturbato, continua e diventa sempre più aggressivo, sempre più violento, fino ad arrivare al momento in cui toglie la vita all'altra persona, che ritiene di doverlo salvare e che rimane in quella relazione. Ecco perché dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi, quindi prima che il maltrattante abbia iniziato e non possa più tornare indietro, perché gli schemi mentali suoi sono talmente cambiati che nessuno lo può recuperare. certo, un progetto di recupero esiste e le carceri come quella di Bollate è pregevolissimo che lo adottino, però è più difficile recuperare chi ormai si è avviato in quel percorso perché indisturbato ha fatto quello che nessuno gli ha interrotto. Ecco, e l'ammonimento del questore per violenza domestica è ancora più interessante e importante perché ci chiama in causa tutti quanti. Perché ricordiamoci una cosa, la violenza domestica è una cosa che riguarda tutti, non riguarda le forze dell'ordine, i centri di violenza, tutti gli attori istituzionali e qualificati di questa rete, riguarda il vicino di casa, riguarda l'infermiere, riguarda l'insegnante, riguarda il compagno che capisce che il suo amico ha una situazione strana in famiglia, tutti ci riguarda, non possiamo voltarci dall'altra parte, non dobbiamo voltarci dall'altra parte. Pensate che quando sento questi talk show dove ci sono questi pseudo esperti e ognuno dice la sua, e anche qua io farei parlare solo chi ha veramente un'esperienza, perché gli improvvisatori fanno solo danni. E l'altro giorno una di queste pseudo esperte, criminologa eccetera, dice: beh, la vicina di casa, quando poi morta la donna, purtroppo un femminicidio, e quando siamo andati, quando i giornalisti sono andati a sentirla, la vicina di casa lo diceva che c'erano urla continue in quell'abitazione. Beh, e se lo diceva, perché non l'ha detto alle forze dell'ordine? Perché l'ha detto dopo, quando questa donna è morta, ai giornalisti? Si è voltato dall'altra parte, ha fatto finta. Ecco, questa è l'omertà, quell'omertà con la quale io mi sono confrontata in Calabria per i reati di mafia. Esiste quando qualcuno soffre, è in una situazione di sofferenza, è ambivalente, non ne vuole uscire, ma perché non ha le possibilità da sola di farlo, e le altre persone che le stanno intorno ignorano, fanno finta di niente, tanto vuole stare con lui. Ma che vuole stare con lui? Non ha la capacità in quel momento di uscirne, perché è una persona che comunque purtroppo ama, è un amore malato sul quale bisogna lavorare. Poi quando verrà presa in carico ci sarà uno staff di esperti, ma intanto prendiamola, intanto qualcuno ce lo deve segnalare. E allora questo chiunque saremo noi, le forze dell'ordine, quando interveniamo per lite in famiglia. E se non ci sono i presupposti per arrestare quella persona, faremo, i nostri operatori, i colleghi dell'arma, faranno una relazione e il questore metterà il provvedimento di ammonimento. Anche il vicino di casa può entrare nei nostri uffici e dire: c'è una situazione strana in quella famiglia. E pensate che il provvedimento di ammonimento per violenza domestica garantisce l'anonimato a chi fa questa segnalazione. Quindi io entro in un ufficio di polizia, segnalo questa situazione, che ovviamente deve essere riscontrata da noi, ecco, non è che uno entra, segnala la situazione e scatta subito l'ammonimento. Faremo le verifiche e gli scontri opportuni, e la persona che ha fatto questa segnalazione ha la garanzia dell'anonimato. Noi, forze dell'ordine, siamo tenuti a non rivelare mai, in nessuna fase del procedimento, ripeto, amministrativo, e nemmeno di quello penale eventualmente, il nome di chi ha fatto questa segnalazione. Questo a tutela dell'incolumità del segnalante stesso, perché mettiamoci nei panni di un vicino di casa che dice: sì, ma io mi posso prendere questa briga, e se poi questo è un violento e se la prende con me, no, non se la prenderà mai con te, perché non lo saprà mai che ci sei anche tu in mezzo. Ecco, questa è l'importanza della prevenzione, arrivare prima del primo schiaffo per tentare di togliere questa donna da un sistema compromesso che la porterà inevitabilmente verso il tunnel e la distruzione. Ecco, se non è una distruzione, nel senso non si arriva al femminicidio, ma la violenza psicologica, la violenza economica, sono tutte forme di annichilimento dell'essere umano, di annichilimento purtroppo delle donne, perché siamo le donne a subirla. Solo una percentuale minima è al contrario, cioè le donne che maltrattano gli uomini. Quindi dobbiamo essere consapevoli che tutti siamo parte del sistema, che tutti devono dare il loro contributo e che dalla violenza domestica si uscirà soltanto quando la società abbatterà gli stereotipi, quindi le scuole, mi raccomando, gli insegnanti, cioè educhiamoci i ragazzi alla cultura della parità. Ci sono differenze, siamo più o meno forti, più o meno multitasking, abbiamo caratteristiche diverse, però la parità deve essere naturale, soprattutto per voi, ecco. Cominciate a ragionare nel senso che quello che vedete e che caratterizza la società di noi adulti, purtroppo in questo momento storico, deve essere assolutamente debellato con l'impegno nostro e col vostro di domani. Io adesso vorrei delle domande, però, così parliamo del docufilm. Credo che più o meno il quadro sia chiaro sull'ammonimento, non volevo fare... Dottoressa, volevo chiedere questo sia questore, perché giunge qualche domanda sempre dalle ragazze che io sto riprendendo tramite la docente. Due domande che si pongono in molti. Come poter fare questo che lei ha già accennato, appunto per denunciare, segnalare se appunto noi sentiamo anche delle urla dentro un appartamento, una situazione magari di un'amica che magari veniamo a conoscenza, che comunque ci sono dei problemi importanti familiari, come possiamo segnalare appunto sempre restando anonimi, quali sono diciamo un po' le procedure che può fare anche una ragazza che è anche minorenne, ma nello stesso tempo se invece si vuole denunciare, quali sono i passaggi per mettere in sicurezza quella donna, soprattutto avendo diciamo un'accortezza e una tempestività nell'occuparci appunto dell'uomo maltrattante, del ragazzo che fa stalking, che continua a perseguitare questa giovane donna che magari nonostante ha denunciato si sente ancora sola perché questa persona, questo ragazzo può ancora uscire a piede libero, quindi è più la ragazza che cerca di cambiare il numero di telefono, deve cambiare un po' le sue abitudini nel quotidiano per i suoi movimenti, quindi c'è un po' questa paura anche poi di denunciare quando si vorrebbe farlo per cercare di porre fine a questa persecuzione. Quindi si ponevano un po' queste due domande. Ok, la denuncia segue una strada penale, l'ammonimento è più semplice, più snello, perché segue una strada amministrativa. In ognuno di questi due casi basta andare nella stazione carabinieri più vicina, visto che a Loano non c'è il posto di polizia, nei commissariati, in questura, per segnalare questa situazione. Nel momento in cui si segnala una situazione, a parte che la denuncia deve essere fatta a distanza di parte, quindi segue un profilo diverso e quella per maltrattamenti in famiglia avvia un procedimento penale, quindi è una situazione un po' più articolata. Ma quando si vuole fare un'istanza, parliamo di istanza di ammonimento, ecco, basta semplicemente recarsi dentro un ufficio di polizia o scrivere anche al questore, si può anche fare una lettera al questore qualificandosi, dicendo di chi si tratta o manifestando una situazione di pericolo in quella determinata abitazione, con quelle dove esistono, dove vive quella coppia. E dopodiché il procedimento amministrativo che si apre impone a noi operatori l'obbligo di omettere le generalità del segnalante. Quindi la segnalazione e le generalità del segnalante servono come avvio del procedimento procedimento amministrativo, ma nel momento in cui la persona arriva in ufficio, mi segnala questa cosa, da quel momento in poi la persona sarà nota solo a me che ho avviato il procedimento, ma in tutte le fasi del procedimento rimarrà anonima. Quindi anche in una fase successiva di accesso agli atti, perché sapete che nei procedimenti amministrativi abbiamo il diritto ad accedere agli atti del procedimento, le generalità del segnalante sono omesse, noi abbiamo l'obbligo di ometterle, altrimenti incorriamo in una sanzione penale, abbiamo l'obbligo di omettere le generalità del segnalante. Io direi che nel momento in cui si fa questa segnalazione scatta tutta una rete di protezione, perché noi abbiamo i collegamenti con i centri antiviolenza, con i quali tutte le questure d'Italia peraltro, con i quali collaboriamo molto e bene, con i centri di recupero degli autori maltrattanti, per cui prendiamo in carico noi la persona che ha problemi di essere seguita continuamente, di ricevere 3.000 lettere, 2.000 messaggi, anche perché ragazzi, se io non gradisco ricevere anche un fiore da quella persona perché ritengo che non sia giusto, non mi piace, ecco, io devo avere il diritto di scegliere. Anche l'avete visto nel docufilm, il maltrattante che diceva: ma io che facevo? Ero gentilissimo con lei. È peccato che la perseguitava, gli ha tolto proprio l'aria. Ecco, noi dobbiamo essere in grado di decidere e nessuno può invadere la nostra vita, la nostra sfera personale. Ricordiamocelo, anche con un'attenzione che dal vostro punto di vista è positiva. Se l'altra la vive come una persecuzione, dobbiamo rispettare gli altri. Dottoressa, se posso solo raccogliere un attimo il riscontro dei ragazzi sulla sua risposta. Io penso che loro quello che volessero dire fosse qualcosa di più immediato, cioè mi arriva il messaggio della mia amica, mi arriva il messaggio dell'amico, mi dice una cosa a compagno di classe, quindi proprio nell'immediato cosa e come reagisco, perché magari per il ragazzino c'è pensare all'ammonimento, alla caserma, alle uccelli. Parlo con il mio insegnante. Ecco. Parlo con il mio insegnante ed esiste un'app che si chiama Impol, l'app Impol, lo segnalo là. Tanto voi siete più bravi di noi con queste app. Però parlo con il, certo, non devo andare in un ufficio di polizia dell'ammonimento, però l'insegnante sì, che è anche incaricato di pubblico servizio, ricordiamocelo. Grazie. Prego. Ti arriverà un messaggio, ma ti arriverà un messaggio. Eh?